Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, che torna nella sua versione classica dopo il palinsesto estivo, quindi terminerà alle 18.30 e riprendiamo anche, chiaramente ringrazio i colleghi che queste settimane, nel mese di agosto, si sono succeduti, quindi Vincenzo Miglietta, Deborah Rosciani, Mauro Meazza e Marco Loconte. Riprendiamo non da dove ci siamo lasciati assolutamente, perché nel frattempo molte cose sono cambiate, altre no, e oggi inizieremo ad affrontare quella che è una settimana è una settimana e dei giorni molto delicati per le iniziative del governo. Perché? Perché domani approda in aula il DL semplificazioni, se non slitterà il 2 settembre. E poi vi saranno un ciclo di audizioni congiunte alla Camera e al Senato sul Recovery Fund. Perché del DL semplificazione ci occuperemo adesso e delle scadenze? Perché non sfugge a nessuno che i due sono i fronti in questo momento delicatissimi per il governo. Uno è come arrivare il 15 ottobre presentando un progetto di rilancio del Paese, che probabilmente non avrà tutti i dettagli, ma almeno che deve avere la cornice. Ci sono 209 miliardi in ballo l'anno prossimo, una parte di questi possono essere già anticipati in manovra, il 10%, mi riferisco ai soldi che in parte sono prestiti, in parte sono a fondo perduto, del Recovery Fund, la quota che spetta l'Italia, ma è importante non sprecare questa occasione limitandosi o a dichiarazioni troppo generiche, che poi nulla vogliono dire, o perdendosi tra mille rivoli di iniziative che poi non hanno mai un impatto significativo. È l'occasione per pensare a che modello, se si riesce, di sviluppo dare a questo paese e quali priorità avere. Non si può fare tutto, chiaramente, ma dove puntare sulle priorità. In questo momento, lo sappiamo, l'abbiamo detto molte volte, il governo nei primi mesi, durante il lockdown e anche nei DL successivi, ha pensato a tamponare la situazione emergenziale con iniziative, la polemica sui 600 euro l'avete vista, letta tanto quanto me, che avevano la caratteristica di essere emergenziali, quindi soldi di sussistenza. Adesso, a mio avviso, bisognerà continuare a dare soldi di sussistenza a chi è ancora in ginocchio e, guardando dentro i singoli settori, come ripeto, ormai fino allo sfinimento, non parlando in generale della ristorazione del settore turistico o alberghiero, faccio un esempio, ma andare a vedere che cosa e chi ha avuto fatturati ancora in drammatico calo, chi invece ha recuperato qualcosa in questi mesi. Lo stesso vale per la manifattura o per i servizi, e poi cercare di capire dove concentrare le risorse. Ecco perché partiremo oggi dal DL semplificazioni, perché se vogliamo essere concreti, il DL semplificazioni è quello che deve sbloccare almeno 130 delle opere di intervento prioritario individuate dal progetto Piano Italia Veloce, il piano da 200 miliardi di euro, di cui 131 già disponibili, per accelerare il processo di infrastrutturazione del paese, quindi alta velocità, linee locali, linee stradali, ma anche il digitale e quindi la connessione con il paese. Apro e chiudo una parentesi. Ecco perché tra l'altro ci occuperemo anche di quello che sta succedendo nella così contrapposizione tra TIM da un lato e Open Fiber dall'altro, e quindi Cassa Depositi e Prestiti e Enel, con la soluzione di compromesso trovata attraverso il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti. Ma chiudo la parentesi, quello sarà un tema che affronteremo più avanti. Il DL semplificazione diventa quindi fondamentale, perché troppe volte in questi anni, oserei dire decenni, abbiamo visto dichiarazioni sulla necessità di snellire le opere, gli investimenti infrastrutturali, a cui poi non hanno fatto seguito però i tempi e delle soluzioni concrete. Vale per le ferrovie, vale per le strade e le autostrade, vale per le opere idriche, di cui 15 opere ferroviarie verranno commissariate, 9 opere stradali saranno commissariate, 12 opere idriche saranno commissariate. E ripeto, il diavolo si nasconde nei dettagli e vorremmo capire come il DL semplificazione potrà effettivamente accelerare questo, perché si lega a quello che dovremo presentare anche in Europa a metà ottobre, cioè dove investire e dove concentrare gli sforzi. Vorrei, e lo dico senza polemica, che si evitasse quello che è successo con la scuola. Cioè, questo è un paese che tipicamente si prende sempre tardi, arriva all'ultimo. È una caratteristica purtroppo che non scopriamo adesso, però adesso diventa ancora più dannosa. Quello che è successo con la scuola, non ho nessuna intenzione di tornarvi oggi, c'è un incontro alle 19 con le regioni, avete letto, i temi più delicati sono quelli dello spostamento e quindi del trasporto urbano per quello che riguarda la mobilità degli studenti e degli insegnanti e del corpo comunque che fa parte del corpo scolastico. C'è poi tutto il tema della temperatura, per carità. Quello che, ma è facile dirlo adesso, andate a riascoltare le puntate di Focus Economia dello scorso giugno e anche inizio luglio, ma anche inizio giugno, quando dicemmo, brutto citarsi, ma attenzione che il tempo sta finendo, non si può arrivare ad agosto con delle indicazioni ancora non chiare, non si può arrivare a 20 giorni dall'apertura delle scuole o in questo caso a 2 settimane con di mezzo anche la non soluzione trovata per le elezioni amministrative. Perché quello è quello che sta capitando sulla scuola. Io non dico che sia facile, ci sono tensioni, problemi in altri paesi, guardate quello che sta capitando in Francia, in Spagna, ma anche in Germania, ma proprio perché non è facile, proprio perché è una situazione mai vista prima, non si doveva arrivare agli ultimi giorni, alle ultime battute, dopo aver perso tempo su plexiglass, non plexiglass, rotelle o quant'altro, senza e mascherine, su cui ancora, devo dirvi la verità, ho capito molto poco, ma sarà colpa mia da questo punto di vista. Ecco, vediamo che non si arrivi con lo stesso ritardo anche l'appuntamento del 15 ottobre. C'è stato il piano Colao, che poi alcuni hanno criticato per essere troppo generico, anche secondo me era molto generico. Poi c'è stato tutto gli incontri, ci sono stati a Villa Dora Pamphili, anche lì non ho capito poi la summa, il sunto di tutti questi incontri quale sia stato, però adesso basta con gli incontri, scegliere e fare il politico significa anche scegliere. Quando scegli per forza di cose, scontenti qualcuno e avrai qualcuno che ti critica, ma la cosa peggiore che possiamo augurarci è di restare in un limbo in cui con formulazioni generiche si cerca di accontentare tutti. Poi vedremo con le proposte che arriveranno anche dall'opposizione, al di là delle critiche sia in piena campagna elettorale per le regionali. Di questo parleremo in apertura nel giorno in cui ci sono dati dell'Istat che i nostri GR24 vi hanno già ricordato, e viene riaggiornato il crollo del PIL meno 12,8% rispetto al trimestre precedente, meno 17,7% rispetto all'anno prima, però è leggermente peggiore, era un 12,4% e un 17,3% nella prima stima. Devo dire, in questo caso non si può dire mal comune mezzo gaudio, però noi non siamo i peggiori, anzi la Francia fa quasi il 14% in meno e la Spagna il 18%, poi c'è la Gran Bretagna che fuori dall'euro segnala un meno 20% a livello congiunturale. A livello tendenziale, cioè anno su anno, la Francia ha fatto meno 19, la Germania meno 11,3, noi siamo peggio della Germania, meglio della Francia e anche della Spagna, oltre che della Gran Bretagna. Ripeto, è inutile dire mal comune mezzo gaudio, ma è importante dare i dati anche degli altri per capire che il nostro crollo storico del PIL non è nei primi posti, anzi a livello europeo. Questo anche a dire che sull'intensità del lockdown, dai dati che vediamo arrivare dall'Europa, non si riesce a trovare una correlazione tra intensità del lockdown e crollo del PIL. I paesi che ho citato non hanno fatto un lockdown più forte del nostro, anzi la Gran Bretagna l'ha avuto più morbido, anche la Francia per molte settimane, così come il dato svedese rispetto agli altri paesi scandinavi non ti dà nessun elemento per dire che con un lockdown più morbido il crollo del PIL sia stato più morbido. E per non parlare poi di quello che sta capitando in Francia e in Spagna come numero di casi, al di là invece però dei dati clinici sui ricoveri terapie intensive. Di questo parleremo e poi con un focus specifico sull'andamento dei consumi, perché quello che sembra chiaro, pur essendoci stata una botta fortissima anche sull'export, meno 24%, è che il tema vero sia l'andamento dei consumi interni. Confesercenti parla di una ferita permanente per il turismo, però poi c'è il dato oggi anche della Confcommercio su come sono crollati i consumi interni in questo paese, ed è un dato insomma che non dice nulla di buono, nel senso che secondo la Confcommercio verranno bruciati 116 miliardi di consumi in meno, quindi 1900 euro a testa, un calo dei consumi dell'11% rispetto al 2019, ecco come si arriva a 116 miliardi, con un calo più forte per esempio nelle regioni del nord, meno 11,7%, che da sole faranno il 60% del calo complessivo. È chiaro anche che laddove si consumava di più la contrazione è più forte, è ovvio che nelle regioni del sud, dove i consumi erano già più bassi, quindi più vicini ai consumi cosiddetti di prima necessità, la contrazione è minore. Infatti la riduzione della spesa è più contenuta al sud, meno 8,5%. Tra le regioni più penalizzate, oltre al Trentino, che se ho ben visto è quello dove il calo sarà più forte, la Confcommercio segnala la Lombardia meno 11, il Veneto meno 15, Toscana meno 14, Lazio meno 12%, la Valle d'Aosta meno 14%. Meglio, dicevo, il sud con la Campania che perderà l'8,8% dei consumi, la Sicilia l'8%. E nessun'area risparmiata, chiaramente, però c'è anche una differenza molto forte tra regione e regione. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Come va la borsa, mi chiedono già alcuni di voi, insomma, meno 0,70 Milano, meno 0,70 Parigi, meno 0,40 Francoforte, Londra meno 0,60, Dow Jones meno 0,70, quindi in linea, va bene, solo di Assori in più 4%, Amplifon più 1,5%, Campari più 1,20%, Interpump più 0,90%, come Italgas, fronte opposto, Atlantia meno 3,5%, Biper meno 2,90%, Leonardo meno 2,20%, e come Unipol, Banca Mediolanum meno 1,80%, come Unicredit, Eni meno 1,70%, come Fiat Chrysler, Poste Italiane perde l'1,60%, Generali l'1,5%, Prismian pure. Euro su dollaro a quota 1,19, quindi leggero rafforzamento. Per quello che riguarda invece temi che non tratteremo questa settimana, adesso vediamo appena possibile di far ripartire anche la classifica. Non ho molta voglia di fare la classifica del venerdì in questo periodo, che non ha bisogno di ulteriori elementi per far venire gastriti o quant'altro. Faccio notare una cosa però che ho trovato abbastanza incredibile in questi giorni, in queste settimane. Noi ci eravamo occupati della denuncia del direttore generale del Dipartimento Energia della Regione Siciliana, che a inizio agosto, a fine luglio, metà luglio, si lamentò del fatto che il servizio che lui dirigeva doveva distribuire fondi comunitari per 560 milioni. La copertura e si lamentava del fatto che i dipendenti dovevano tornare al lavoro, tant'è che il presidente della regione Sicilia Musumeci aveva dichiarato l'80% dei dipendenti regionali si gratta la pancia, bisogna metterli a lavorare. E tra l'altro lui disse attenzione, occorre far ritornare i miei dipendenti al lavoro, perché appunto dobbiamo distribuire 560 milioni di euro. E lo dico anche perché spero che la distribuzione dei fondi che arriveranno dall'Europa non sia fatta dalle regioni, ma almeno a livello nazionale, perché non mi fido di come le regioni sanno o non sanno spendere i soldi, la maggior ragione è quella del sud. Perché lo cito? Perché a metà agosto l'Assemblea regionale doveva rinnovare l'incarico a Salvatore Tuccio D'Urso e a un altro gruppo di funzionari. Si opponevano i 5 Stelle e anche il PD. Insomma, alla fine che cosa è successo? Lo manderanno in pensione. Tant'è che lui ha detto: sono vittima, sono stato fatto fuori dopo aver scritto un ordine di servizio richiamando gli impiegati, i dirigenti dalle vacanze. Faccio notare una cosa, che i sindacati del pubblico impiego, sempre pronti a difendere diciamo, i diritti e mai il merito, e lo dico senza aver timore di essere smentito, si erano indignati, e te pareva, dopo le dichiarazioni di Salvatore Tuccio D'Urso, perché CGL, CISL e UIL, insieme alla sigla autonoma regionale che si chiama SADIRS, hanno minacciato D'Urso di denuncia alla Procura della Repubblica per aver messo in pericolo la salute dei dipendenti, citando la necessità di tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, nonché il pregiudizio per la sfera psicologica messa a dura prova in un periodo contrassegnato dall'attuale emergenza sanitaria. E D'Urso ha risposto: ma dopo 4 mesi a casa parlano di problemi psicologici? Qui c'è anche il tema degli insegnanti che... Allora, dobbiamo capirci, non è che i problemi o i timori psicologici li possono avere solo i dipendenti della Regione Sicilia, nello specifico chi lavorava al Dipartimento Energia della Regione. Ce li hanno tutti questi problemi e questi dubbi e queste paure. Ce li hanno i dipendenti del privato quando vengono al lavoro, ce li hanno i dipendenti del pubblico, delle strutture sanitarie, delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, delle municipalizzate quando lavorano, gli autisti, tutti ce li hanno. Quindi per favore non iniziamo con mettete a rischio la mia salute, perché se iniziamo così non si va più da nessuna parte. È ovvio che devi avere delle procedure che siano il più possibile corrette, il distanziamento, non sto a ripetere quello che sappiamo tutti, ma continuare a dire che ci sono delle persone con l'appoggio dei sindacati che hanno la sfera psicologica messa a dura prova. Io ho la sfera psicologica, e non solo quella psicologica, ho anche altre 2 sfere messe a dura prova dall'atteggiamento dei sindacati e del pubblico impiego ogni volta che si cerca di portare, in questo caso, i dipendenti della Regione Sicilia, su cui abbiamo fatto decine di puntate sul numero esorbitante di dipendenti, senza contare poi quelli che invece dipendono dalle partecipate, no, al lavoro. Perché molti imprenditori, molti privati cittadini, molti imprenditori anche non di manifattura ma anche dei servizi, ci segnalano la difficoltà nell'adempiere a qualunque pratica burocratica, avendo il pubblico impiego ancora una grossa fetta dei suoi dipendenti in smart working, e non si riesce a fare lo stesso lavoro. È inutile girarci attorno. Allora, lo dico anche al ministro Catalfo, si può pensare a un ritorno in massima sicurezza anche nel pubblico impiego che non penalizzi ulteriormente una burocrazia pubblica e regionale locale che non era esattamente un modello a livello mondiale quanto efficienza e celerità? E comunque vedo che la decisione è stata di mettere in pensione Salvatore Tuccio D'Urso, ma insomma, bene, saranno contenti i sindacati del pubblico impiego in Sicilia. Pensate che D'Urso, ve lo dico perché ha dichiarato: io ho deciso di promuovere delle persone che se lo meritavano, i sindacati hanno protestato e l'ufficio del personale ha bocciato gli avanzamenti. Questo poi è il problema, altro che tante... tante lucubrazioni mentali. Allora, veniamo alle notizie in breve di carattere internazionale. Per quello che riguarda il PIL, ne parleremo più avanti, ho già dato io la sintesi dei dati aggiornati di oggi. L'unica buona notizia è che le entrate fiscali ad agosto sono andate meglio del previsto. I dati provvisori al 20 agosto segnalavano un più 9%. E Gualtieri, il ministro dell'economia, dice che ci si aspetta un forte rimbalzo nel terzo trimestre. Certo che ce lo aspettiamo, attenzione a illudersi che possa far recuperare diciamo, quanto perso nel primo, meno 5%, nel secondo, meno 12,8%. Però, lo abbiamo capito tutti, ci giochiamo a livello europeo, a livello forse anche mondiale, la qualità della ripresa ce la giochiamo in questo autunno, inizio 2021, perché se la situazione dovesse essere comunque sotto controllo, con mille difficoltà, ma gestita, ci si può immaginare anche un rimbalzo ancora più forte nel primo trimestre del 2021 e un recupero dell'attività. Se invece dovessimo tornare, ahimè, a situazioni emergenziali, beh, insomma, difficile fare previsioni a quel punto. come va l'inflazione ad agosto. I prezzi hanno fatto più 0,3 su luglio, ma meno 0,5 su base annua, quindi siamo in deflazione. Anche a luglio era meno 0,4 rispetto a luglio del 2019. Faccio notare che i beni energetici sono scesi del 13,6%. Il calo più netto si vede ai servizi relativi ai trasporti, meno 2,3%. Leggera crescita per i beni alimentari lavorati, più 0,8%, e anche non lavorati, più 2%. L'inflazione, diciamo, di fondo, quindi levando i beni energetici, quelli alimentari freschi, fa un più 0,3 e un più 0,4, quindi insomma, restiamo su un livello di inflazione quasi da non dico deflazione, ma da assenza di inflazione. Segnalo anche che il Ministero del Lavoro ha convocato per domani pomeriggio un incontro sulla vicenda Air Italy. Che cosa è successo? L'ENAC ha sospeso anche la licenza di trasporto aereo di Air Italy. Air Italy è l'ex Meridiana, che nel 2018 fu rilanciata con il 49% di Qatar Airways, è finita in liquidazione in bonus l'11 febbraio, prima dello scoppio del Covid, quindi non è una vittima del Covid. E dal 25 agosto per legge non può più vendere biglietti, trasportare passeggeri o merci. E a questo punto domani vi sarà un incontro al Ministero per quello che riguarda la riunione, il futuro dei lavoratori. Allora, adesso andiamo sul meteo, la pubblicità, poi un brevissimo aggiornamento sulla scuola e gli appuntamenti del governo in due settimane cruciali. 349-238-6666 per sms e WhatsApp, pubblicità e meteo. Focus Economia. In diretta con Sebastiano Barisoni, dunque breve approfondimento sulla scuola, tanto da qua il 14 e tra l'altro mi permette anche di lanciare una nuova iniziativa di Radio 24 che è partita oggi nel programma di Alessandro Milan, Nessuno e 100 Milan, curata dalla nostra Maria Piera Ceci che è Tutti a Scuola. Però prima di tutto l'aggiornamento, allora c'è stato l'incontro, il summit con 53 paesi dell'OCSE sulla modalità di riapertura in sicurezza delle scuole. Ha partecipato anche il direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Klug. Si è stabilita una coalizione europea per le strategie post-Covid. Poi è stato detto che insomma, ci sono 1,6 miliardi di studenti coinvolti nella più grande interruzione dei sistemi educativi nella storia, e su questo abbiamo pochi dubbi. 4 misure chiave per ridurre il rischio negli ambienti scolastici, le norme di igiene di base, il distanziamento, politiche specifiche per i bambini a rischio con esigenze di apprendimento, condizioni di salute speciali, nonché per docenti con condizioni di salute che li rendono vulnerabili a infezioni più gravi. E chiaramente le figure fragili vanno tutelate, e a maggior ragione gli insegnanti. Io non ho detto questo, ho detto solo però attenzione che siano veramente fragili, che non iniziano ad arrivare i certificati perché uno ha paura, pur avendo insomma, un profilo sanitario normale, ha paura di infettarsi, perché quello ce l'abbiamo tutti e c'erano tutti i lavoratori nel privato o nel pubblico che sono già tornati al lavoro. Allora, l'autocertificazione, ma sì, dai, sentiamo lo stacchetto eccezionalmente oggi della nuova iniziativa di Radio 24, ogni lunedì con Maria Piera Ceci e Alessandro Milan sulla scuola. Tutti a scuola! E io avrei aggiunto, speriamo, però non voglio fare l'uccello di malaugurio. Allora, ha chiarito la sua posizione il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli, che aveva parlato di autocertificazione per gli studenti. Io invito tutti a poche settimane dall'inizio della scuola a non buttare altri elementi sulla graticola, cioè ci sono già tanti. Non è che ogni mattina uno si può svegliare con un'idea che secondo lui è brillante. A, potevate svegliarvi prima. B, cerchiamo di semplificare, non di incasinare ulteriormente. Comunque, sentiamo Giannelli cosa ha chiarito sulla ipotesi di autocertificazione. Semplicemente detto che le scuole potrebbero anche chiedere una tantum, una dichiarazione da parte delle famiglie che ha a che fare appunto con quelle condizioni. Quindi non è richiesta minimamente un'autocertificazione, che peraltro dovrebbe essere prevista da una legge che non c'è. E l'obbligo, questa tutela poi di che? Dei presidi, a tutela dei presidi? Cioè, perché questa autocertificazione? No. Chi andrebbe... Infatti, quello che stavo dicendo, in realtà il vero obbligo è quello della misurazione della temperatura a casa. Ecco, appunto. Lasciamo stare le iniziative così, che poi vivono lo spazio di un mattino. Il presidente della Regione Abruzzo, invece, 24 Mattino, con Simone Spezia, sulla 24, che è ripartita tutto il palinsesto oggi, quasi tutto, ha detto che la riapertura del 24 non sarebbe un dramma. Sapete che alcune regioni dove si vota hanno ipotizzato di aprire direttamente dopo le votazioni regionali. La capienza deve essere al 100% sui mezzi e vi deve essere l'obbligo di mascherina. Normalmente, tradizionalmente, le regioni del centro-sud aprono qualche giorno o una settimana dopo a quelle del nord. In genere il calendario scolastico è sempre stato abbastanza diversificato fra tutte le regioni. Abbiamo ricevuto ormai da tempo questa pressione, diciamo, ad attentare di arrivare tutti insieme a ripartire con un traguardo di aprire il 14, dopodiché il governo ha fissato le elezioni al 20, si crea questa frattura. Non mi sembra un dramma se si fa in maniera un po' ragionevole un'apertura direttamente il 24, senza nuove interruzioni, senza doppie sanificazioni, ma il numero di giorni che bisogna assicurare perché sia valido l'anno scolastico restano sempre gli stessi. E poi non è colpa nostra se oggi pomeriggio stiamo ancora a discutere di quanta gente possiamo far salire sugli autobus, perché poi è troppo facile per qualcuno mettere la bandierina sul calendario e dire quel giorno tutti a scuola, dopodiché scarichiamo su altri, cioè le regioni in particolare, ma anche i comuni che gestiscono il trasporto urbano, la responsabilità di dover spiegare perché la metà delle persone sono rimaste per strada e non siamo stati in grado di portare gli studenti dentro le scuole. A proposito dell'incontro di oggi, si parla di una richiesta da parte vostra, da parte delle regioni, anche su pressione dei comuni, di portare la capienza dei mezzi di trasporto pubblici all'80%. Di fatto vuol dire autobus pieni. Un po'. Io infatti l'avrei fatta al 100% con obbligo di mascherina. Allora, il sindaco di Bergamo, sempre 24 Mattino, mi riferisco a Giorgio Gori. Ora, Giorgio Gori è un esponente, non è solo sindaco di Bergamo, è anche un esponente importante del PD e soprattutto del PD del Nord. Lo dico perché, per pesare ulteriormente la sua valutazione, ha detto: il governo ha gestito la riapertura male. Sono mesi che si dice che questa è una priorità, ma mancano 15 giorni e le incognite sono ancora moltissime. Sono mesi che si dice che questa è una priorità, abbiamo voluto poter riaprire le scuole anche sul finire dello scorso anno scolastico come hanno fatto altri paesi e non l'abbiamo fatto. Abbiamo detto va bene, però partiamo bene a settembre e invece mancano 15 giorni e le incognite sono ancora moltissime, perché ancora non sappiamo quando arrivano i banchi, non sappiamo come finirà la questione del trasporto pubblico. In molte scuole mi dicono c'è ancora un problema di sistemazione delle aule, ogni giorno cambia la linea sulle mascherine, stamattina leggiamo sui giornali che si potrà togliere la mascherina in classe, io francamente non capisco perché, perlomeno per i ragazzi più grandi mi sembrava una misura di protezione non così fastidiosa, era una difesa in più, ma soprattutto secondo me è molto incerta la determinazione di quello che può succedere nel momento in cui dovesse esserci un caso sospetto, è quello che personalmente mi preoccupa di più. Oltretutto, ripeto, quando ci saranno 100 ragazzi alla fermata del pullman che vogliono salire, come si fa a fare in modo che salgano quelli che saturano la capacità dell'80% e non di più? Chi c'è lì a dirgli: ragazzi, non salite più perché il pullman è pieno? No, ma guardate, Gori ha ragione da vendere, come tutti gli altri amministratori locali. Vedete, il punto non è, lo dico che mi sta scrivendo al 349-238-6666, attaccare la Zolina perché la... Non faccio mai dei personalismi, però il problema è che tutto questo dibattito, e siamo tutti d'accordo che ogni paese, guardate la polemica in Francia, sta cercando delle soluzioni a un fenomeno assolutamente nuovo, mai visto prima, ma proprio per questo motivo bisognava affrontare il tema trasporto pubblico locale, le mascherine. Anch'io sono d'accordo con Gori che almeno le superiori, qual è il problema se un ragazzo si tiene la mascherina dopo quello che abbiamo visto quest'estate, dai. Però il problema è che non si può arrivare a inizio settembre, perché quando dicevamo, e qualcuno mi accusava di fare polemica inutile contro la Zolina, di essere fissato sulla scuola, che a giugno non si sapeva ancora una beata nulla sulle decisioni da prendere, e tu avevi avuto un CTS, Miozzo e gli altri, che non si capisce quale indicazione, di che cosa avete parlato, lo dicevamo a giugno, di che cosa avete parlato a maggio, a giugno, ad aprile, a luglio, di che cosa avete parlato? Se siamo ancora qua a discutere mascherine sì, mascherine no, plexiglass no, quello è scomparso, i banchi, stavo per dire girevoli, con le rotelle e soprattutto la capienza degli autobus, che è fondamentale. Cioè, di che cosa avete parlato? Questa è la domanda. Di cosa avete discusso? Cosa è stato fatto, ministro Azzolina, a giugno, a maggio, al di là di dirci che tanto le scuole non avrebbero riaperto neanche per l'ultimo giorno? Di che cosa avete discusso? Questo. È che dà fastidio. Sapete perché c'ho le... Perché adesso è inutile anche parlare, no, ma adesso arriveremo a delle situazioni tampone su tampone, poi, ma la dimostrazione plastica politicamente che il ministro Azzolina non è in grado di fare da sintesi politica l'ha data il governo o il presidente del Consiglio Conte nel momento in cui ha avvocato a sé la cabina di regia. Se chiama commissariamento in italiano, poi uno lo può chiamare come cavolo vuole, può chiamarlo anche Mario. Allora, è anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che non è certo esponente dell'opposizione, dice: ci sono le criticità più grosse, riguardano il trasporto, occorre che il governo ci venga incontro, mantenere a distanza di un metro sugli scuolabus e la deroga nei percorsi di 15 minuti è praticamente infattibile. Però, diciamo, dando per scontato, lo dico con la massima serietà, che l'apertura della scuola sarà un caos, lo è in tutti i paesi europei, ma da noi lo sarà, diciamo, in maniera, a mio avviso, in qualche modo anche più colpevole, perché in altri paesi europei si è tentato almeno di fare delle altre aperture. Comunque, adesso affrontiamo quelli che sono i prossimi nodi del governo, proprio per evitare che ci si prenda all'ultimo minuto. E quindi il primo nodo arriva domani in aula, il DL semplificazioni, che non è una cosa tecnica, ripeto, è il passaggio fondamentale per sapere se, quando arriveranno i soldi del recovery fund e che possono essere in parte già utilizzati il 10% quest'anno, avremo la possibilità di andare avanti con i lavori pubblici, ferrovie, strade, autostrade, porti e opere idriche, a partire da quelle che sono state indicate come commissariate, in maniera più celere. Oddio, ma perché se io faccio una critica al governo qualcuno mi deve scrivere che sto facendo, tirando la volata a Salvini? Ma si può non tirare la volata a nessuno e avere, diciamo così, il cervello libero? Poi c'è qualcuno che mi dice: proseguire con la scuola a distanza fino al vaccino. Ma sì, certo, chi se ne frega dei genitori, tanto mica lavorano, appunto, no? Manteniamo tutti in smart working, dai. vacci tu a fare il ministro dell'istruzione? Ma non ci vado a fare il ministro dell'istruzione, però posso avere il dovere anche di criticare i ministri che secondo me lavorano male? O dobbiamo dire che va tutto bene? Madama la Marchesa. Allora, a proposito di Madama, nel senso che era la nostra soluzione a tutti i problemi, bentornato anche a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. Allora, lasciamo stare la scuola per un secondo, tanto sarà, diciamo, un aggiornamento quotidiano, e vediamo di evitare, possiamo dire questo almeno, quello che è successo con la scuola, di arrivare al 10, al primo di ottobre, scoprendo che per il 15 bisogna presentare all'Europa un piano che sia abbastanza dettagliato, non solo generico. Il DL semplificazione, vediamo se ho capito bene Gianni, domani approda nel dibattito parlamentare e fin qua tutto bene. Tra l'altro vi saranno anche le audizioni congiunte sul Recovery Fund, potrebbe esitare al 2 settembre. Se ben ricordo, il DL, il decreto semplificazioni, approvato il 7 luglio, pubblicato il 16 luglio, ha 65 articoli, dove adesso ci sono 2600 emendamenti, di cui 1400 della maggioranza. È già questo, che gli emendamenti li propongo l'opposizione, va bene, 1400 della maggioranza mi sembrano un po' tanti. E assieme a quel decreto è stato approvato anche il piano Italia Veloce, che indicava le opere prioritarie da portare avanti. Tra i pezzi forti del decreto c'erano le modifiche al codice penale in tema di abuso di ufficio e responsabilità erariale, per cui venivano circoscritte le ipotesi di punibilità, e quindi per evitare che la paralisi dei funzionari pubblici. Cantieri più rapidi, e quindi congelamento fino al 31 dicembre 2021 di alcune disposizioni del codice degli appalti sull'attribuzione dei contratti. Affidamento diretto per i lavori sotto di 150.000 euro, procedure più snelle senza bando fino a 5 milioni, almeno poi 5 le proposte che dovranno essere ascoltate prima di concedere l'assegnazione per il bando fino a 5 milioni, e questo meno vincoli sulle ristrutturazioni. Dicevo che in parallelo c'era stato anche il piano Italia Veloce, 130 opere e programmi di intervento prioritari, un piano 200 miliardi di cui 131 già disponibili, e c'era un allegato infrastrutture al piano nazionale che elencava anche 36 interventi da affidare a commissari. Nello specifico ci sono 12 opere commissariate di carattere idrico, 9 opere commissariate di carattere stradale, 15 opere ferroviarie commissariate. Non sono, c'è l'ultimo miglio, il terzo valico di Giovi, dei Giovi, ma non sono solo queste le opere prioritarie, ma perché tra le opere prioritarie figurano anche la Torino-Lione e poi l'alta velocità Torino-Alessandria-Genova, l'alta velocità Milano-Tortona-Genova, la velocizzazione appunto attraverso il quadriplicamento da Milano-Pavia, il potenziamento da Venezia-Trieste, l'alta velocità Brescia-Verona-Padova, insomma vado... e il tratto di valico del Brennero. A che punto siamo? Perché questo si collega a Gianni, scusami la lunga introduzione, si collega con la possibilità poi di saper spendere i soldi che arriveranno nel 2021. Sì, possibilità di saper spendere, che infatti è essenziale per trasformare il piano Italia Veloce e l'allegato infrastrutture al piano nazionale delle riforme che tu citavi prima, diciamo, dallo stato larvale di slide, che è sempre molto bello presentare, ma insomma se l'allegato infrastrutture si presenta tutti gli anni e le infrastrutture prioritarie sono più o meno sempre quelle, allo stato di realizzazioni. Il decreto semplificazioni prova a intervenire su alcuni aspetti. Tra gli emendamenti che dovranno essere esaminati nel lavoro parlamentare, diciamo, l'idea più forte è quella di estendere questo regime derogatorio che tu illustravi prima degli appalti e di estenderlo un po' temporalmente, almeno fino alla fine del 2021, perché in verità pochi mesi di regime derogatorio servono a poco, probabilmente servono solo, come dire, a far andare veloce qualche appalto con qualche controllo in meno, ma non a cambiare veramente il ritmo di realizzazione delle infrastrutture. È che intorno a questo è scoppiata già la settimana scorsa una battaglia politica all'interno della maggioranza, per esempio sui vincoli e i limiti alle opere di rigenerazione urbana. Che cosa vuol dire? Noi sappiamo che gli investimenti in edilizia oggi nelle città devono servire soprattutto a ricostruire, certo, a riqualificare delle aree, pensiamo alle aree industriali intorno a Milano, Sesto San Giovanni e così via, più che a fare pezzi di città nuove di cui non c'è assolutamente bisogno anche per ragioni demografiche. Tutti questi interventi sono bloccati da una serie di vincoli, di autorizzazioni eccetera eccetera, e nella maggioranza si discute se come dire, alleggerire un po' questi vincoli, oppure, come propone un pacchetto di emendamenti di LeU, che è l'ala per così dire sinistra della maggioranza, di creare vincoli ulteriori e sostanzialmente in grado di bloccare. Qui c'è già una prima battaglia politica, ma poi appunto, lo dicevi tu, il calendario è particolarmente stretto. Entro fine mese bisogna presentare il recovery fund, il recovery plan, che è il piano per candidarsi ai fondi del Next Generation, e lì siamo ancora in alto mare. Le due cose sono molto collegate, perché tu appunto blocchi un po' di burocrazia, fai delle cose a volte discutibili intorno alla sospensione del danno erariale, c'è una polemica abbastanza feroce, ci sono emendamenti che chiedono di cancellare quella norma nata con l'intenzione, l'obiettivo dichiarato, di superare la cosiddetta paura della firma, perché in realtà qui il risultato è che più che sbloccare le firme si rischiano di sbloccare sprechi, perché non più perseguibili dalla Corte dei Conti, è un effetto collaterale, diciamo, abbastanza fastidioso, soprattutto per chi aveva fatto, no, del controllo dell'onestà eccetera eccetera, il proprio vestillo. Insomma, vedremo come andrà a finire. Ma al momento invece sul recovery plan siamo alla fase del caos, nel senso che i ministeri hanno svuotato tutti i loro cassetti, hanno presentato 530 proposte al comitato che sta facendo da cabina di regia. Diciamo che su 530 proposte così a naso, circa 500 sono di troppo, nel senso che noi per presentare una candidatura efficace ma anche 515, ai fondi europei dobbiamo, guarda, selezionare molto e fare progetti strutturali. Toccherà a Palazzo Chigi, al Ministero dell'Economia, fare una selezione che dovrà essere feroce e dovrà essere rapidissima, perché settembre inizia domani. Allora, voglio essere molto chiaro. In questi 20 anni di Radio 24, noi ogni volta che c'era una legge finanziaria o legge di stabilità, come si chiama adesso, sapevamo che partiva l'assalto alla diligenza, quindi con qualunque governo non c'è niente di strano, cioè quando tu devi, poi iniziamo gli emendamenti, però faccio notare che si era in periodi tra virgolette normali, e allora bisognava poi blindare alcune. In questo periodo straordinario, ahimè, ed eccezionale, ho capito che i miliardi sono tantissimi, perché rispetto alle manovre degli anni scorsi, che mobilitavano in tutto 25 miliardi o giù di lì, qui stiamo parlando di decine cioè di 209, di cui metà, diciamo, a fondo perduto, circa la metà. Però mi sembra che l'urgenza e l'emergenza di questo paese, e allo stesso tempo, Gianni, l'ammontare della somma enorme che per la prima volta, e temo l'unica, l'Europa darà e concederà in questo modo, beh, bisognerebbe anche limitare l'assalto alla diligenza, nel senso, non si può fare come se si fosse una normale manovra finanziaria, e lo hanno fatto governi di centrodestra e governi di centrosinistra, quindi non sto facendo critica all'attuale maggioranza. Gianni. Sì, fammi dire una cosa solo apparentemente noiosa, ma in realtà centrale. Qui c'è un problema di metodo, sia nella costruzione dei decreti, sia, come si vede, nella costruzione del recovery plan. Finora il metodo è stato quello di chiedere ai vari ministeri di inviare proposte, certo, o di norme nel caso dei decreti o di progetti nel caso del recovery plan, e poi dopo si fa la selezione. Questo fa sì che il ruolo di regia che deve essere a Palazzo Chigi e al MEF sia piuttosto indebolito, perché tu vieni, come dire, subissato, inondato dalle proposte ministeriali, spesso anche vecchie, spesso, come dire, repliche di proposte portate avanti senza successo nel passato, e questo crea una situazione caotica. Cioè, non bisognerebbe accontentarsi, ci vorrebbe un ruolo politico, diciamo così, ancora più centrale di Palazzo Chigi, che faccia, come dire, da promotore, non solo da vigile urbano che dirige il traffico delle proposte, altrimenti il rischio caos diventa una certezza. Allora, e qui vengo l'ultimo tema, fermo restando che poi il DL semplificazione decade il 14 settembre. Ci sono 60 giorni di tempo, Per cui vabbè, speriamo che si arrivi. Però che ne è stato, anche qui lo dico senza polemica, è inutile che qualcuno mi scriva sei spudoratamente contro i 5 Stelle perché vogliono tagliare i finanziamenti alle radio. Ma quali finanziamenti riceviamo noi alla radio? Ma dai, magari. Allora, che cosa ne è stato, non tanto del rapporto con Colao, ma di tutti gli incontri a Villa Dora Pamphili? Perché quello che tu dicevi, cioè che il capo del governo e il Ministero dell'Economia non possono solo ricevere i 530 segnalazioni o dossier, ma devono anche loro indirizzare. Noi ci aspettavamo che arrivasse dopo la panoramica avuta negli incontri di Villa Dora Pamphili, no? Allora, le ipotesi sono due: o quegli incontri, gli stati generali, le task force, eccetera, eccetera, hanno partorito delle carte segrete che vengono tenute gelosamente nascoste in attesa del momento buono, oppure sono state una passerella per, come dire, fare in modo che il governo non avesse solo l'immagine del gestore dell'emergenza stretta, il governo e soprattutto il Presidente del Consiglio non avesse solo l'immagine di gestore dell'emergenza stretta, ma appunto facesse in modo di guardare al futuro. In verità proprio il tema della scuola che tu hai affrontato prima mostra che questo sguardo al futuro quantomeno è stato piuttosto parziale e ha evitato alcuni nodi spinosi. Vedremo del piano Colao, noi l'abbiamo descritto nei dettagli, vedremo se Palazzo Chigi, il Ministero dell'Economia vorrà prenderne comunque la cosa parte. Finora l'effetto passerella è stato largamente predominante. Allora, con vedremo domani, oppure se esita il 2 settembre, l'arrivo del DL semplificazione in aula, lì sarà un test importante per capire se gli emendamenti verranno mantenuti o no, cosa se ne farà. A chi mi dice ma cosa fate campagna contro il governo, ascoltate, lo scopo nostro è anche criticare quando le cose non vanno, non ho mica detto che l'alternativa, non stiamo facendo alternative, ci fosse un altro governo criticheremo un altro governo se ci mancano informazioni o ci sembra che uno sia in ritardo, no, non siamo qua né per suonare il violino né per suonare altre cose. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Grazie a Gianni Trovati, GR24. Poi torniamo sulla vicenda rete delle telecomunicazioni e sui dati della Confcommercio sui consumi degli italiani. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, mi scrive un ascoltatore, un programma serio occuperebbe anche dei dati del PIL dove l'Italia ne esce meglio di Francia, Spagna e Gran Bretagna. Infatti, se lei ascolta questo programma, ce ne occupiamo fra pochi minuti. Prima però, visto che parlavamo del DL semplificazione degli investimenti, per cui usare i fondi europei che arriveranno e che possono essere fino al 10% anticipati anche quest'anno, non riguardano solo le infrastrutture fisiche, ferrovie, strade, autostrade e opere idriche e porti, ma anche le infrastrutture digitali. A questo proposito cerchiamo di fare il punto su quello, visto che stasera vi sarà i consigli di amministrazione dei due gruppi, quindi TIM da una parte e CDP dall'altra, daranno via libera al memorandum che hanno concordato il numero uno di TIM Luigi Gubitosi e il numero uno di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo. Che cosa è successo? Allora, il tema di fondo è arrivare a una rete unica, quella che si chiama FTTH, Fiber to the Home, quindi una fibra ottica che arriva fino alle case degli utenti in modo da, ecco perché si dice l'ultimo miglio, da colmare quello che si chiama digital divide, quindi la differenza che c'è in alcune aree del paese, ma non solo tra nord e sud, anche all'interno delle stesse regioni, delle stesse aree geografiche, nella capacità di accedere alla rete, perché se poi vogliamo parlare di un salto anche di qualità, quello è fondamentale. Ora, ed evitare la duplicazione degli investimenti. Perché? Perché il governo Renzi, ricordo bene la vicenda, per spronare TIM e comunque per dare un messaggio, alcuni parlarono di schiaffo a Tim, varò nel 2016 la società Open Fiber, cioè la società partecipata al 50% da Enel e 50% da Cassa Depositi e Prestiti, che aveva il compito di cablare, di connettere l'Italia in parallelo con quello che stava facendo Tim. Per evitare appunto una duplicazione, non si è arrivati a nessun accordo. Che cosa è successo? Quest'estate, quindi ad agosto, 4 agosto se non ricordo male, Tim annuncia l'ingresso del fondo americano KKR per investire sulla rete secondaria del gruppo. C'è stato poi un intervento del governo con il ministro Gualtieri, il ministro Patuanelli, che ha di fatto sospeso l'operazione. Nei giorni scorsi però si è trovata una quadratura del cerchio, perché sostanzialmente, siccome il tema era la governance, cioè chi comanda nella stanza dei bottoni della rete unica, allora la Cassa Depositi e Prestiti, che è anche azionista di Open Fiber con 50%, entrerà anche nella nuova società e entrerà come azionista di Tim con 9,9% e garantirà la bontà dell'operazione. È una gestione che dovrebbe assicurare gli interessi di tutti gli operatori. Antonella Olivieri del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera. Dunque Antonella, sullo sfondo abbiamo letto molto in questi giorni, in queste settimane, di integrazione verticale o integrazione orizzontale. Vediamo se ho ben capito e correggimi se sbaglio. Cioè il tema è sostanzialmente Tim deve avere anche un ruolo nella rete, un po' come quando parlammo della liberalizzazione delle ferrovie, cioè un conto è chi gestisce i binari, un conto è chi gestisce i vagoni che ci vanno sopra, mentre gli altri operatori chiedevano un'integrazione orizzontale, cioè che ci fosse la rete e poi ogni operatore poteva giocarsi la sua partita. Ho capito bene? Sì, però adesso quello che sto per dire è un po' una forzatura, ma è come se, non so, Volkswagen, Ford chiedessero alla Fiat di mettere a disposizione la sua catena di montaggio e poi la Fiat si trasforma in un concessionario. È ovvio che non è possibile, no? Perché lì Tim avrebbe perso buona parte, una fetta importante anche del suo business. Ma no, è il suo business, perché altrimenti appunto è la differenza che c'è tra un produttore di automobili e un concessionario che le distribuisce. Insomma, voglio dire, che vende i prodotti fatti da altri, insomma, non era possibile. Qui il problema era quello di assicurare una neutralità vera, cioè ai concorrenti di Telecom che usano la rete di Telecom. Anche oggi avviene e anche oggi ci sono parecchi contenziosi. In passato si diceva persino che fossero dei contenziosi per monetizzare, fare la concorrenza anche monetizzando, ma insomma sono tutte cose un po' strumentali. Cioè la realtà è che a logica di rete di telecomunicazioni ne basta una, perché come le autostrade non certo. Ha senso pensare a una concorrenza tra autostrade parallele, e il problema è che chi gestisce l'autostrada, cioè chi la costruisce, chi la gestisce, chi è il titolare della concessione non può però impedire agli altri di usarla come la usa lo stesso. Quindi questo è un problema. Ti faccio una domanda, però di semplice soluzione. Un tema identico lo avemmo anche quando per esempio si parlava delle ferrovie, della rete ferroviaria, no? Poi lì il concorrente era solo Italo. Però si decise che un conto è la società che gestisce la rete e un conto è la società che fa concorrenza a un'altra o ad altre con i vagoni ferroviari, diciamo, con il trasporto passeggeri. Lì la soluzione, anche se a Italo ebbe parecchio da obiettare perché poi sembrava essere discriminata, la soluzione fu chiara, cioè si è creata una società che gestisce la rete ferroviaria e poi invece le FS sono uno dei soggetti che utilizza questa rete. Perché non era pensabile una soluzione così netta in questo caso? Sì, perché la tecnologia è diversa. Qui non stiamo parlando di un ponte. Cioè, il problema è che le TLC sono un sistema intelligente di gestire le tecnologie. Oggi parliamo di FTTH, ma chi dice che domani non sarà un'altra la tecnologia con la quale avremo la connessione veloce? Quindi cioè, il punto è che chi fa di mestiere l'operatore di telecomunicazione a livello di gestore della rete, come c'è in tutti i paesi, deve avere la possibilità di cambiare, c'è una parte intelligente che non può essere messa a disposizione degli altri perché non è un'infrastruttura passiva. Mm-hmm. E poi la tecnologia di cui parliamo oggi non può essere immutabile nei secoli. Cioè tu dici, quindi, il binario è quello da quando hanno creato le ferrovie e non cambierà, sì, per carità, poi ci sono i binari per l'alta velocità. Sì, magari, sì, per carità, sì, però, ma è un'altra cosa. Perché... Però in quel momento tu lavoravi su un'infrastruttura fisica non destinata a mutare, se ho ben capito. Invece in questo caso l'operatore che gestisce la rete deve poter anche modificare la rete stessa, cosa che chiaramente non è pensabile di fare così nella rete ferroviaria. Domanda, quindi il fatto che la Cassa Depositi e Prestiti entri anche appunto con quasi il 10% in TIM, e sia però è anche la... è già entrata era un modo per forzare un po' le cose, poi però... bisogna vedere come cosa uscirà alla fine, perché il team manterrà il 50,1% della società, della nuova infrastruttura, però se ho ben capito la CDP dovrebbe garantire, visto che è anche socio di Open Fiber, parità di accesso a tutti i concorrenti, che poi si chiamano anche Vodafone, Wind, appunto, e quant'altro. È questo il ruolo che si è individuato? Sì, in sostanza sono state fatte un po' di semplificazioni, vabbè. Comunque, il discorso è la CDP con delle maggioranze qualificate, con dei poteri particolari, dovrebbe aver voce in capitolo sia, diciamo, sul piano di investimenti, sia sulla garantire la neutralità della rete, che vuol dire la parità di accesso a tutti gli altri operatori concorrenti. E del resto, cioè, non è che sia una cosa neanche così strana, perché in Inghilterra British Telecom ha la sua rete al 100%, ma ha una governance particolare che tutela tutti gli utilizzatori. Mm-hmm. E quindi più o meno l'idea è quella. Ciò detto, oggi è l'inizio, cioè è della cosa, non la fine, certo. È tutto da negoziare, non sappiamo esattamente quale sarà, cioè c'è un'idea di massima, ma se arrivi alla fine, come arrivi alla fine, con che pesi, con che valuta, è tutto da definire. E noi staremo ci qui. Vorrà almeno un anno. Ci vorrà almeno un anno, noi spero saremo qui a raccontarvelo, però era importante fare anche il punto di una vicenda che può sembrare di carattere così tecnico, appunto infrastrutture digitali, ma in realtà è fondamentale poi per garantire la reale concorrenza tra operatori, ma dall'altro ricordando anche che non è trattabile una rete, come tu ricordavi, di telecomunicazione alla stregua di altre reti di carattere infrastrutturale. Grazie anche a Antonella Olivieri. E adesso, per far contento tra virgolette anche l'ascoltatore, torniamo sul tema che avevamo trattato solo nelle notizie in breve in apertura, quindi i dati aggiornati di oggi sul crollo del PIL dei vari paesi dell'area euro, ma anche i dati di Confcommercio su come verranno erosi i consumi quest'anno, chiaramente a causa del Covid. Allora, l'Italia viene rivista al ribasso come stima del crollo del PIL nel secondo trimestre, meno 12,8% rispetto al primo trimestre, meno 17,7% rispetto al secondo trimestre del 2019. Meglio di noi fa solo la Germania, che fa meno 9,7% anno su anno. Restiamo all'anno su anno perché congiunturale mi interessa poco. Meno 9,7% la Germania, peggio di noi fa la Francia, che fa meno 19% anno su anno, e anche la Spagna, che va oltre il 20%, mentre fuori dall'area euro ricordo che la Gran Bretagna è quella che ha avuto anche il congiunturale peggiore, meno 20%, e avrà anche il tendenziale peggiore. Questo per dire non che l'Italia ma il comune mezzo gaudio, ma non siamo il paese che ha il crollo del PIL più alto, anzi dopo la Germania siamo secondi. Per noi la Germania è importante che non crolli, comunque che crolli ma non troppo, visto che 9,7% è comunque un crollo, perché noi abbiamo nella Germania primo paese per le esportazioni, soprattutto nella meccanica. Poi però c'è il dato di oggi della Confcommercio che dice che nel 2020 verranno bruciati 116 miliardi di consumi, una media di 1900 euro a testa. Sostanzialmente vi sarà un calo dei consumi, un crollo dell'11% rispetto al 2019. Mariano Bella, direttore del Centro Studi di Confcommercio, buonasera. Buonasera. E bentornato. La cosa che più mi ha impressionato, se poi ci vuole raccontare anche come siete arrivati a questo calcolo, è la differenza regionale. Il nord perderà quasi il 12% dei consumi, un 60% del calo complessivo, e la Lombardia addirittura il calo più forte in valore, 22 miliardi e mezzo di crollo. Nel mezzogiorno la riduzione sarà, tra virgolette, solo all'8,5%. Bella. Intanto le nostre stime sulla perdita di consumi interni delle regioni, quindi compresa la spesa degli stranieri, sono abbastanza coerenti con i dati di oggi su PIL consumi che ha fornito l'Istat. L'Istat dice 71 miliardi li abbiamo già persi nei primi sei mesi, noi arriviamo alla fine dell'anno con 116 miliardi di consumi bruciati. Perché c'è l'eterogeneità territoriale? Beh, intanto intorno alla media Italia ci deve essere un minimo di eterogeneità, se no l'alternativa è che tutti facciano meno 11%. E la spiegazione è questa: consideriamo la spesa degli stranieri sui consumi regionali nel 2017, che sono gli ultimi dati veri. In Sicilia è il 2,8%, in Calabria è lo 0,7%, in Valle d'Aosta è il 15%, in Trentino Alto Adige è l'8,5%, in Liguria è il 7,6%, cioè in sostanza, forse questa è una cosa che può dispiacere a qualcuno, ma occorre ricordarla, in sostanza il nostro mezzogiorno attira meno turisti stranieri in proporzione rispetto al nord, e sappiamo che i turisti stranieri rispetto ai turisti nostrani italiani sono altospendenti, e quindi l'impatto della perdita totale di turismo straniero, come testimoniato oggi dall'Istat, nel secondo trimestre meno 91,3%, che vuol dire che ad aprile abbiamo fatto meno 99,99%. Vabbè, come non ci si poteva muovere, è ovvio. Esatto, perfetto. E quindi questo si riverbera sulla stima dei consumi interni regionali. Dopodiché ci sono altri parametri, cioè la percentuale di imprese sospese totalmente durante i lockdown, il tasso di disoccupazione che indica una certa debolezza, e poi abbiamo utilizzato anche la percentuale di dipendenti pubblici sul totale lavoratori regione per regione. E qui, se in Sicilia e in Calabria siamo attorno o sopra il 20%, in Lombardia siamo al 9%, in Veneto al 10%, in Emilia Romagna all'11%. E bisogna anche dire, anche questo potrà dispiacere, ma è la verità, che i dipendenti pubblici non hanno perso un euro di reddito disponibile, e quindi prima o poi torneranno a consumare come consumavano prima, al di là dell'incertezza. Quindi tutti questi fattori forniscono una certa eterogeneità territoriale. Voglio aggiungere una cosa importante, perché ho visto che qualcuno, diciamo, si inferma lo sito rispetto a queste stime. Il fatto che il mezzogiorno, per le ragioni abbastanza solide che prima ha rammentato, abbia perso un po' di meno del nord, ma ha perso l'8,5%, che se ce l'avesse detto cinque anni fa un profeta, avesse detto nel 2020 il sud avrebbe l'8,5% di consumi, avremmo pensato sicuramente all'inizio della terza guerra mondiale. Il fatto che il sud ha perso un po' di meno non vuol dire granché in termini prospettici, perché il nostro vero problema a livello italiano di mezzogiorno in particolare è cosa succederà dal 2022, perché nel 2021 ci sarà un bel rimbalzo statistico. Ma al di là di questo, nel 2022, se dovessimo riprendere a crescere, si fa per dire, come è capitato dal 2014 al 2019, come nel 2019, cioè tassi frazionari, di frazioni di punto, il sud, che andava peggio del nord, nonostante la caduta minore nel 2020, avrà gli stessi o addirittura più lunghi tempi di recupero. Ce lo possiamo permettere? Io credo di no. Ecco, quindi, la necessità di riforma. Adesso arrivo all'ultima domanda. Quindi, chiaro è che le regioni che più avevano introiti dal turismo straniero, e questo vale poi anche all'interno delle stesse regioni, pensate alla differenza tra la costa, non so, Toscana e Firenze, sono due mondi, due film diversi, e quindi chi viveva di più con o tra Jesolo e Venezia, se vogliamo usare un esempio di un'altra regione, chi dipendeva di più dal turismo straniero che era alto spendente, chi ha minore presenza di pubblico impiego in proporzione, quindi ha avuto meno persone che hanno mantenuto lo stipendio invariato, e aggiungo io anche da dove i consumi tendevano a essere più alti in generale, quindi è più facile anche comprimerne alcuni, laddove invece i consumi erano già più bassi, la compressione è più difficile. Ebbene, questo spiega la differenza tra nord e sud. Alla luce di questo tra varie regioni, alla luce di questo ragionamento, Bella, un invito al governo, visto che dovremmo arrivare al DL semplificazioni e poi a presentare a metà ottobre all'Europa le nostre richieste. Io continuo a ritenere che dopo la fase emergenziale, per carità, helicopter money, soldi a pioggia, l'errore più grosso che si possa fare adesso è trattare tutti allo stesso modo, anche all'interno delle vostre categorie, cioè anche se tu fai parte del settore turismo o agenzie di viaggio o fai parte del settore alberghiero, perché il centro urbano con gli uffici vuoti e i turisti mancanti è una cosa, la costa è un'altra, la costa pugliese, toscana, emiliana sono state in qualche modo, hanno recuperato, in altre le città d'arte no, cioè cosa dovrebbe fare? Siete favorevoli, per esempio, perché alcuni andranno aiutati ancora con sospensione di pagamenti e soldi a fondo perduto, che vi possa essere un'asticella per esempio sul fatturato, non so, si va a vedere a ottobre come stai messo e si vede il tuo fatturato in questi mesi per capire chi aiutare e chi no? Certo che siamo d'accordo, ma dal punto di vista logico, non dal punto di vista, anche dal punto di vista sindacale, ma soprattutto dal punto di vista logico, oggi bisogna concentrare le risorse con trasferimenti proporzionali alle perdite. Bisognava farlo per verità anche prima e si poteva anche immaginare di farlo, però cioè, le cose sono andate come sono andate e abbiamo avuto centinaia di bonus a chiunque. Oggi bisogna in maniera selettiva aiutare i soggetti facendo una specie di riassunto dell'anno e integrare il provvedimento del 20% del fatturato con una specie di integrazione a consuntivo rispetto appunto alle perdite e fornire dei trasferimenti a fondo perduto, che poi sono gli unici che non sono a fondo perduto perché sono dovuti, in proporzione alle perdite. In questo modo si proverà a salvare quello che una volta si chiamava il petrolio del nostro paese, cioè il turismo, soprattutto, come correttamente diceva lei, nelle città d'arte in cui i dati oggi, i dati frammentari, accidentali e episodici, ci dicono che siamo ancora ai livelli di giugno, cioè non c'è stata la ripresa che c'è stata su alcune località turistiche della costa. E io spero che si arrivi a questo, perché il 20% a cui faceva riferimento lei è nel decreto che stanziò più di 6 miliardi, che ha funzionato, perché ci dicono gli imprenditori, dicendo se tu hai perso più del 30% del tuo fatturato, il governo andava da 400.000 euro, poi fino a 1 milione, poi fino a 5 milioni, il governo ti dà il 20% di quanto hai perso, se hai perso più del 30%, con il vantaggio che era un 20% netto e quindi era più alto della cifra, perché tu per fare quella cifra come lordo avresti avuto anche delle spese, tasse da pagare e quant'altro. Sono d'accordissimo con lei, speriamo che si arrivi appunto a mettere un'asticella. Vogliamo mettere il 30% come era quella del decreto ristoro? Benissimo, mettiamo il 30%. So che si faranno purtroppo delle discriminazioni anche sgradevoli, perché ci può essere chi ha perso il 28 che non lo prende, chi ha perso il 33 che lo prende, però una sticella la devi mettere. La cosa più sbagliata da fare è continuare a trattare tutti come se avessero lo stesso bisogno di un finanziamento, di sospensione dei pagamenti, perché non aiuterai mai a sufficienza chi ne ha bisogno e fai dei regali impropri al mondo del commercio, in questo caso, che non ne ha così tanto bisogno. Certo che tutti abbiamo perso quest'anno, però c'è una differenza tra il 70 e il 20. E con questa frase alla catalano ringrazio Mariano Bella, direttore del Centro Studi Confindustria. Auguro a voi una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Puoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.